parola, signor Bacchi. Pronto, Santa Maria di Pisa. Si scambia a Santa Maria di Pisa per vedere dove Santa Maria della Lettera. Santa. Tutto qua, signor Bacchi. Buonasera. Buonasera, buonasera, ma è pronto. Dimmi una cosa, guarda, adesso lascio la portante, guarda se c'è quel rumore. Eia, c'è il rumore, hai scorreggiato mentre c'era la portante. Ma c'è scorreggiato? Hai tu caduta. No, perché era al massimo di potenza questo. E quindi l'ho abbassata a 5. Massimo era minimo, no? No, era al massimo. E si è distorto. Non distorto adesso, forse sono troppo vicino. Guarda adesso. Migliorata, lontanati poco vago, che sta migliorando. E guarda a vedere. Mi piace più buona va. Ehi, devo passare a buono, secondo la troppo vicino. Allontanati altri 10 km. Te ne pare, ti guarda, sembra facciamo. Ah, ci sta facendo. Come mai se la scarica adesso non stai modulando, non stavi murichetti. Cavolo, lo stai frugando. Aspetta un attimino, qua forse era perché era troppo lento lì. Guarda a vedere se lo fa adesso. No, ma adesso non sembra più pulita. Sì, perché non avevo stretto il qua, forse si muoveva. Allora stringi. C'è la morsa, non ce l'hai la morsa? Oh, la sento a mano, non ho bisogno di morsa. Il pappagallo te lo do io. Tu metti la morsa e lo stringiamo. Me ne ho bisogno. Cioè, sto provando a vedere. Torna con l'MG60 a vedere se lo fa quel rumore. Legato vai? No, perché gli ho abbassato la potenza. A vedere se lo fa lo stesso. Dai, senti, prova. Proviamo a vedere. Guarda a vedere, 1, 2, 3, prova. Qui è scaricato, all'inizio è andato benissimo, poi ho detto prova, ha cominciato tru, riprovo ancora. Oh, non sto toccando nulla, non sto toccando, boh. È come ci sia, un filo tocca e non tocca, capito? Tocca. Un filo che tocca e non tocca, come faceva ieri il mio ragazzo. E dopo io ci avvideava, ci rubazzava, boh. Ma vai, il passaggio era bellissimo. Non preso cosa è, deve essere nel cavo. Se qualche cavo tocca, non tocca. Perché quando lo tieni fermo... Allora il cavo, c'è cioè, lo oscillamento dentro le croce, è il piedino. Sì, non è già capitato, c'è un qualche oscillamento. Ok. Se lo tieni fermo, è bello, niente, è chiaro. C'è il muro, ma poco, sì, ci deve essere qualche oscillamento. E così, infatti, avaro cavo è fermo. Ho messo l'altro cavetto sopra per tenerlo fermo. Ed è fermo lui. E adesso va benissimo. È libero, è chiaro, non è chiaro. Sì, bisogna che lo torni a controllare. C'è invece qualche cavetto che... tocca o non tocca? Tocca o non tocca? Lo devo fare più bene allora, i saldaduri. E se la fai vuol dire che è un po' cacciore? No, oh, sicuramente come l'ho toccato io, va, ma io lo rimetto a posto. Vale, va bene, non è solo che sono andato la prenda, cioè, i capi dei vestiti riescono. No, l'ho fatto io questo il cavetto, lo sono fatto io per questo microfono qua. Sta andando bene però. Adesso perché è fermo il cavetto, prima c'era sopra l'altro filo e si muoveva. Ah, ecco, allora per tenerlo fermo, prendi un chiodo e lo chiodi alla cosa, alla vence poi c'è. No, non è sopra ma è sotto. È sotto qua, nel microfono. No, c'è il microfono, il chiodo al microfono, metti e rimetti a posto delle pizze, quattro chiodi e non si muove più, È sicuramente nello spinotto, perché adesso ci ho messo il cavetto sopra, ci ho messo, ed è fermo, sicuramente da un chili. quindi allora è anche bella amplificata e tutto pulita, pulita. Sì. Ah, non ho fatto questa cosa, ho abbassato la potenza io. Non provo a aumentarla adesso come il cavo fermo, senza uovo del cavo. Guarda a vedere adesso. Un bombante, perché è troppo pieno, sì. Fai fuzza. Quello, con quello se lo metto tutto potenza, dici forse 10. Sì, anche da un po'. Una bomba. È così, infatti è così. Sto andando bene, no. Lascia tutto così, metti le mani in tasca. Infatti è così. Ne devo occuparmene. Domani no, sei bravo tu, domani. Piano, vai, saltando, finisce. Ci siamo anche perduto il cavo in giro. Sicuramente. Domani lo metto sotto lente e guardo a vedere. E bisogna fare l'operazione. Devo andare al ginecologo a controllare la vena. Vabbè, signor Bacchi, meglio ti senti oggi. Poi lascia qui. Lasciamo perdere il tuo, ti metto un altro, invece di noi siamo in tempo. Andiamo e andiamo. Bubu. Mica cosa è... Chiamare il coso e fatti portare su, fatti controllare. Con questo ho fatto tra che c'è, meglio non andare il tuo. Questo sì, già è vero, questo è buro, in chiedi. E peggio che mai. Mi sale e ne esci malato. Oppure entri con le botti tuoi e ne esci con le botti dell'acqua. andiamo, che è te? A capire. Sento i dolori come sono, quando passo ora, andiamo. Sai, te lo dobbiamo dire per un altro poco questa cosa, per un vedo poco. Se continuiamo così. La Sardegna è coincente a questa incavecchiata. Speriamo che sia così, che non sia tutte barzeccole. Anche su in Alta Italia hanno cominciato a fare un permesso da andare da una città all'altra. E anche ci si è alzata, va. Io non so cosa ho permesso da fare. Non ho toccato nulla, Bacchi, non ho toccato nulla. Una bomba si è arrivata. Bomba? E allora c'è stato da Edo. Sì, adesso va bene, adesso non tocca più nulla, poi devo imbusciarla. Non sto toccando nulla, no, Bacchi, sto toccando soltanto il coso di... dal microfono e basta, il pipiti e buco. C'è qualche filetto attorno al microfono che tocca, ci vado, siamo ancora tutti. E aspetta che ci metto il microfono normale, bu. Lascia che adesso va benissimo. Ma gli metto il microfono normale. Vediamo un po' se è normale per questo. Riesci a vedere con Kilcio? Pare sia più sodo. Che fai muore? E io c'ho l'originale Giulio. Fai muore, bu. È il suo orinale quello lì. Deve essere che non è compatibile con quello là. No, c'è qualche filo che non funziona bene intorno, perché a momenti va benissimo, una bomba, a momenti c'è quel granchio ed è qualche filo che ti scappa. Non lo so. Ma lo fa dopo d'un polto, lo fa, ecco cos'è. Ma li metto sotto lente e lo controlli da piedi sino a testa, guardando con la lente. E sentato che ho perduto, scommetti qui. Hai visto che sono grossi, neanche un cappello così. E quello poi il capo è fine fine. Quei capelli che c'è dentro sono fine fine. Io tiro da manca ai bucciali per questa volta. Infatti, hai dato un po' di cosa ai bucciali, dici. Anche una macchinetta ruddocca. Ce la fa. Oh, ma chi, la macchinetta ci ho provato, non lo sbuccia neanche. Non ce l'ho fatto, che è duro. Che ne so, del capo duri. No, questo è che è troppo fine. Allora per quello lo so qua, perché io riesco a sbucciarlo la prima volta, la seconda volta, poi lo scaldo con l'accendino poco a poco. No, io ho dovuto fare una samanera per bucciarlo, piano piano. Infatti. La cosa è fa così e boh. Questo stavo pensando che sto con sapere, hanno come a mangiarlo e tutto bruciato. Andiamo bene, andiamo, catta. Va bene, se lo teniamo così. Risparmio di tutto e oh ya, ma solo di tutto. Perché mi insegna. Anda male, ah, sino a ieri sembrava che stavi migliorando e oggi ti sei peggiorato. Sì, ieri notte sono in casa, tutto tranquillo, anche oggi. Certo, faccio dormire, dopo un po', mi sono un po' piano. Poi avevo la svolta, secondo me. Mi sono alzato, mi sono trattato, non so come la faccio. Non lo fa, c'è un bianco, non c'è mai, e non si vede nulla, non c'è né un colpo, nulla, il punto lo vorrei scontato, se no te lo scontro. E quando ne esce uno, mi sta l'altro, o poi l'altro. Bisogna comprarmi un coso di palla liquida e sta pulita la bicicletta, è quello buono. Aspetta che andiamo a muovere, la gente che forse le casse non mi può entrare. Avanti che vuole entrare, no? Tu vuoi ne passare ma non per di scia. Ti sei altro 4 gradino. Sicuramente sì. Andiamo bene, andiamo, caspettina. La macchina di Graziano, lui ha detto. Ah, beso mio, io non l'ho già ancora vista. Ma che veniva uno in abbiatezza, no, che veniva a casa, la piazza, c'è circondato di anziani. E da lontano mi balia, non mi balia, tipo. Boh, io non lo so. Io non l'ho ancora vista. Ah, uno sportello giuro, la capota del supermercato. No, questa c'ha la capota e uno sportello c'ha. Così mi ha detto lui che c'ha la capota e uno sportello. Quella è più comoda, perché se piove si la parte che riveneva e non entra. No, non entra acqua così. Se vuoi fare dalla sabbassa allora si deve pushare tutta la sabbassa. No, perché da allora deve essere l'altro inquilino che c'è vicino a Graziano, che è dalla Sabassi. E così lo vede anche la musica della No, poi quello lì c'ha i baffi, c'ha Graziano baffi non ne ha. No, perché non ne ha baffi? No, si ha fatti taroccati. No, non è... L'ho visto chi è, so chi è l'altro inquilino che c'è vicino da lui. Sì. Mi ha mandato un messaggio. Quello della truffa delle mascherine, mandatela. No, non me le ha mandate. Io sono andato da cosa? Da Sidernet a prenderle. Un pacco 10 euro. Sono pacchetti da 10, 5 pacchetti. Da 10, 10 euro. Allora, attenzione, ora sta circolando qualcosa di nuovo. La gente va a porta a porta per distribuire le mascherine. Dicono che ci sia una nuova iniziativa del governo. Quindi, l'iniziativa del governo locale, ci chiediamo al governo. Dove ci chiediamo di indossare di vedere come la lascia con l'unica e sfruttando le cose finite e faranno addormentare la persona. Dunque, a questi momenti, i tuoi amici è un momento comunista. Capito? Fanno di porta in porta a distribuire le mascherine. Ma è che hanno più bene a darti le mascherine che no. E con il suo moglie, la te la faccio vedere sul telefono chi sono questi due. Sai. Sì, mi hanno mandato il coso a me. La foto di questi due che stanno circolando, ci hanno anche una pistola. A me mi hanno mandato la fotografia, mi hanno mandato. E questa fotografia ha fatto il giro di tutti quanti quelli che hanno il telefono e li sta cercando la polizia, li sta cercando. Adesso non pensato quello lì. Ma ormai la gente è stata allertata anche di com'è la situazione, solo che stanno allertando anche i vecchi, stanno allertando adesso, a non aprire. E poi ci hanno pensato tutta questa sostanza chimica nelle mascherine, questa sostanza che ti addormenta. E io quindi uno e qui ne pongo tre e avanti. No, io a Bacchì sono andato ieri mattina, sono tornato stamattina per tornargliene un pacco per farmelo cambiare perché mio genero voleva quelle singole che gli servono in officina. Abbiamo preso quelle singole, le ho preso. E le ho pagate, queste qua singole vengono 25 centesimi l'una, vengono. Mi ha giubilato un pacco da 50. Un anno dovevi capire queste mascherine. Io me ne ho giubilato un pacco, un matesce da 50 a quelle da 10 pacchetti. Io ne ho un 10 o 12 ce ne avevo ancora le macchine. A me me ne ho rimaste 4, quindi avevamo giubato la scorta. Cioè vai da Sidernet. Le paghi 20 centesimi l'una le paghi. Ah, sono fatti di belle. Avanti. Sì, a Graziano, sono fatti di... Ma a Torres Gudizeni, sono fatti di pellet, buonasera. Sì, sono fatti di pellet, buonasera anche a lì. Di truffe. Andiamo bene, andiamo. E così è Luca. Oggi precommento, ma grazie lo stesso. Da primo luci, no, che se le cose sono rivolte. Luca, ma ti sto dicendo balle, io le ho pagate 20 centesimi l'una e mi hanno giubilato un pacco da 50. E io ogni tanto vengo un pareggio, mi si da... prima di venire da Maurice, da 2,75 centesimi. Ah, fai prima andare a internet una mascherina paghi 20 centesimi, un pacco da 50 a 10 euro. E naturalmente sono usa getta chi si... Ma sono quelle le cose però, di cartone, lo stavo chiamando. Oh, quelle che stai usando, quelle celesti, chirurgiche, quelle celesti, quelle lì sono. Quelle lì sono, non facevo cose in cartone, con i trappucci ce la puoi sapere un po'. No, quelle chirurgiche, quelle azzurre, quelle celesti, come le vuoi chiamare, quelle lì sono. E quelle singole vengono 25 centesimi l'una. Io a mio genio, siccome gli servono quelle lì da appoggiarsi sul banco, che viene un sacco di gente bene senza mascherina, allora ve li fate pigliare anch'i e ve li fate puniti. Pigliare 50 centesimi. E pigliare 50 centesimi. Avanti, non sono tutto. E allora, sono qua, mi sto mettendo le lacce alle scarpe, riprendete. Senza scarpe, sole, senza scarpe, l'ho detto io. Questo strato a noi ce ne sta fregando anche le scarpe, mia Luca ci ha cavato ogni anno. Ehi, piccolai. Bisogna far così. Luca, meno ti dia una gullata a me. Sì, dopo se dia una gullata se può una tracolla, ma poi puoi portarli. Così non ripeti. Andiamo, vai, andiamo. Dai, dai. Io voglio di cuna, va, però non voglio di niente. Io voglio un soldato. Noi era a Zaccio, era così, milanese. Quando stava che stava in più, al Val del Duri, al Val del Duri, la Calazzuria, ai Nocchi, si negava alle volte, le diava una colla che si poneva in notare i fatti. E andava la cuzza. Vabbè, quando c'è vedo gallo, sì. Purtroppo che è dovuto portare la giusti. Visto l'hai, te l'ho detto io che era così. Bisogna far così. Tu caliato di sei. I mutanti, se li enti. No, poi la giusti tocca a tutti. Sì, bisogna far così, bisogna fare. Purtroppo è così. Bello signor Bacchi, oi oi oi. Purtroppo. Bisogna fare così, ma non mi già prendiamo a riracchina. Io vediamo se è mal morino. Attento, marino, marino, marino, fate due cose, siamo tutti. Sì. Mi sa che è occupato, Borghisso. Così è signor Bacchi, vi ha fatto che da maniera. No, le traetto sempre, bisogna aprire un tempo come in te vede. Se non ci prendeva, ti obbligiamo con leva. Se non con lo solo, ti obbligiamo con lo sole. Sì signor Bacchi, bisogna fare così, bisogna fare. Come in te vede, ci obbligiamo. Poi, non ti aspetta, non ti fai, ti passa l'anno. purtroppo è così. Non si può ciambà. Se si può mi avevo anche un conto. La chiamata mi hanno fatto. E mi sono messo a regolare che lui vuole andare in campagna da lei a portare con lui. Così è. Come viene, va e ritorna. E io andiamo sotto come l'altra dopo, mi vedi? Aiù, a pigliarci un fresco. No, a cavallo, cosa lo pulito. Io bisogna andare anch'io. Ah, non ho che dare a te, non cavo, tu cavo io pure. E io mi sono salvato, mi sono, e poco venne a me. pazienza. Non lo so perché non ho mai sentito il sapore. La comandante mi ha attraversato uno e poi ha un coso dell'elefante. Ah, e no che siamo riusciti a farli sparire. Non ci abbiamo visto. E vicino alla cabina, insomma. Vicino alla cabina, ha schiattato dalla strada, ne ha iniziato le marita, e ci lo a cuccia un dente. Ehi, no, io da qua siamo riusciti a farli sparire. È fatto male farli sparire. Ah va, per la carestia. Per la carestia. Agli cinesi li avevano venduti come intercorso, come forse di India. Sì, ma adesso se gli avevano cinesi di burro, sì, i sarroni. Carità. Sapete no che viene a ogni un barian coniglio, un burro e paria. E non può che ci andare al ristorante e non si mangiava fino a più. Nani Giarrado, sei Nani Giarrado. Quello di Via Pascoli, quell'altro... Quindi da un altro vicino a Via Turrettana, poi un altro che non so quindi è, e sì, ne hanno chiuso. Lui a Predagneda. Perché gli hanno trovato dei cani gli hanno trovato. Dice che erano cose pecore, invece erano ingani. Differenza lì da G chiede a Emilia di Bappiguri, invece erano gli ingani erano, perché erano odori gabbi. Perché era un cane truccato, era un cane truccato, magari era un maschio burro. Purtroppo sì. E hanno fatto, l'hanno analizzato e l'hanno avuto proprio di da manina. Ed era in galera. E infatti, l'hanno sgarrato dello tutto, hanno fatto fare un biglietto, l'hanno fatto il biglietto di sorandata a Torre Signor Baesi Dedi. Hanno fatto fare un biglietto, l'hanno fatto fare. E tirano i cutivura dalla Sardegna, manca in Italia. Tornare nel vostro paese. Aspetta un attimino, che mi sono sul campanello, non c'è tutti a capitolino. Oh, siamo Marchi, io ti devo lasciare perché devo andare a prendere la signora. Ci sentiamo dopo. E Iato, lasciacela stare lì, cerca di scaricarla, bisogna una piccola. Ci sentiamo dopo, tutt'ora.